as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Il Pane delle Rose, Radio Città Fucigo 103.1. Ricordo a tutti che potete ascoltarci anche andando sulla nostra pagina, c'è il link del podcast che verrà il prima possibile inserito per quelle, tutte quelle persone che non riescono a sintonizzarsi. Oggi parleremo dell'iniziativa che si è svolta il 7 febbraio a Bologna alla palestra Milli del Circolo Arci Guarnelli di Randusio. I compagni della GKN sono venuti a trovarci, hanno scelto come seconda tappa del loro bellissimo GKN Tour in preparazione per la manifestazione nazionale del 26 marzo a Firenze, la città di Bologna. Tantissime associazioni, sindacati, movimenti, partiti hanno aderito a questa iniziativa del 7 febbraio, hanno partecipato, infatti la palestra era strapiena, sempre nel rispetto delle normative Covid, infatti moltissima gente era al di fuori, hanno dovuto mettere delle casse per poter far ascoltare l'assemblea. Un'assemblea così partecipata al Circolo Arci Guarnelli io non l'avevo mai vista, io lo frequento spesso, sono spesso lì, è stata veramente un'iniziativa bellissima perché i compagni della GKN hanno raccontato a tutti quello che è successo, come si è sviluppata l'avvertenza, i risvolti, ci sono gli ultimi risvolti. Infatti nella nostra intervista che abbiamo fatto a Francesco, che è un membro del collettivo di fabbrica della GKN, abbiamo parlato, visto che siamo metalmeccanici, dell'accordo firmato al MISE, l'accordo di reindustrializzazione, uno degli accordi più avanzati, lo diciamo nell'intervista, ma chi ha avuto la possibilità come me di leggerlo ha notato che ci sono tantissime cose innovative, importanti, chiaramente così come abbiamo detto in quell'iniziativa, sono tutte da realizzare, non è semplice, ma ci sono delle cose veramente innovative e ne parliamo nell'intervista con Francesco, le svisceriamo un po' tutte. Adesso ci sentiamo un bellissimo pezzo del mio grandissimo amico Snupo, l'artista, il musicista della GKN, e poi l'intervista a Francesco e ci sentiamo poi per le conclusioni. Sorgiamo come il sole al mattino. Sorgiamo come il sole al mattino. Se non lotti che uomo sei, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6. Che uomo sei? 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6. Avanti, uniti, e adesso insorgiamo! Avanti, uniti, e adesso insorgiamo! Insorgiamo! Insorgiamo! Però va bene, dai. Facciamoci un applauso, dai. Aspetta, sì. Salve a tutti, siamo qui, è finita la bellissima iniziativa dei compagni del collettivo di fabbrica della GKN a Bologna, al Circolo Guarnelli, alla palestra Gino Milli, e abbiamo con noi Francesco, che è uno dei membri del collettivo della GKN. Allora Francesco, io ho letto l'accordo, ci puoi parlare un po' di questo accordo, delle cose principali di questo accordo? Sì, l'accordo come che ha avuto l'occasione di partecipare anche oggi all'iniziativa è stato definito un accordo avanzato in un contesto che comunque rimane molto arretrato rispetto agli accordi che ci sono nelle altre vertenze che vai a vedere all'interno del territorio italiano. E, sì, è un accordo molto avanzato nel semplice fatto che va a salvaguardare l'occupazione, abbiamo messo un tetto ai 370 dipendenti perché una delle cose peggiori di una vertenza lunga come la nostra è perdere le competenze e ne abbiamo già perse tante da quando siamo partiti, e quindi andremo a mettere un numero che è quello di 370 dipendenti, che chiunque andrà a industrializzare il sito avrà come numero da rimettere in competenza, perché ci siamo accorti negli anni che negli stabilimenti molto grandi come il nostro scendere sotto un numero dipendente vuol dire chiuderlo, vuol dire effettivamente non avere più la possibilità di gestirlo. E, oltre a quello, secondo noi va a creare una sorta di regia, la regia che è composta dalle RSU e anche dal territorio, che va a inquadrarsi nel salvaguardare i soldi che verranno investiti all'interno del nuovo progetto, che non vengano tra virgolette portati via come fanno le solite multinazionali, li prendano e non li reinvestano mai e poi se li intascano, diciamo, e soprattutto ci dà la possibilità di andare anche a incidere sul nostro piano industriale, sulla presentazione del nostro piano industriale, che comunque non abbiamo assolutamente abbandonato e a cui stiamo lavorando, perché qualora non si concretizzassero l'acquisizione da parte di chi è interessato, ritornerebbe in QF, cioè a Borgomeo stesso, e la gestione dello stabilimento lo prenderebbe in carico lui, e questo ci aiuterebbe anche a avere una proposta più avanzata in cosa andremo a fare nella ristrutturazione con l'apporto di Invitalia e con tutta la parte, una sorta di nazionalizzazione, diciamo, privata. Non so se si potrebbe comprendere il termine, ma è così che intendiamo fare. Dopodiché mette delle date, entro il 14, sembra il 14 febbraio, insomma entro metà febbraio si dovrebbero palesare gli acquirenti con una proposta vincolante, e quindi dovremo andare a scoprire cosa faremo, e se entro agosto non va a porto tutto, come dicevo prima, Borgomeo si fa carico di prendere in mano l'azienda. Questo, io ho visto anche che si parla anche dei lavoratori che hanno lavorato da voi. Sì, certo, avevamo già prima l'incontro, avevamo un bacino in cui confluivano tutti quei lavoratori interinali che avevano lavorato per un tot di tempo con noi in GKN, e che andavano a uscire perché in quel momento magari l'azienda non aveva più bisogno di loro, e questo fa sì che se l'azienda avesse avuto la possibilità di riassumere doveva partire da questo bacino in base all'anzianità di lavoro e tutto, e dandogli anche un tempo in cui queste persone dovevano passare direttamente a un contratto stabile, non più allo staff leasing o a tutta una miriade di contratti che andavano a fare. E questo succederà anche ora. I mancanti operai dei 300, per raggiungere la quota di 370, andranno presi da questo bacino che è ancora attivo e che è messo lì. Questo qua è veramente innovativo, io non ho visto un accordo di reindustrializzazione in cui si guarda anche alle persone del bacino, e vi fa veramente onore. No, e questo noi l'abbiamo studiato, è anni che lo studiamo, è anni che l'abbiamo fatto funzionare, molti dipendenti GKN sono all'interno di GKN, essendo passati da questo bacino, E purtroppo quando prima si faceva industria, cioè l'industriale faceva industria e si confrontava con un sindacato come il nostro, e è venuto fuori queste cose, come durante l'assemblea è stato tirato fuori anche l'articolo, l'uso, il non uso del job act all'interno dello stabilimento della GKN, e alla fine questi sono accordi all'atere e molti di questi accordi ci hanno consentito anche di vincere l'articolo 28, anche questa è una roba che non si dice tanto, però in realtà quando vedi perdere da tutte le parti ti domandi ma perché l'hanno persi tutti invece GKN ce l'ha fatta a vincere, ecco, è frutto anche di quegli accordi che sono stati sottoscritti negli anni con l'azienda, ci ha aiutato a portare a casa quel risultato lì. Allora, invece io volevo che tu parli del tour, oggi siete venuti a Bologna, ieri siete stati alla Caterpillar di Jesi e adesso ci spieghi un po' quello che state facendo, dove andrete, insomma. Sì, abbiamo annunciato ieri, come dicevi te, Jesi, una delle giornate forse più importanti da quando siamo in vertenza, perché Jesi è una di quelle vertenze molto simile alla nostra e ci siamo confrontati agli operai, abbiamo conosciuti, questo arricchisce tutto il nostro collettivo di fabbrica, tanto più tutti i lavoratori, e confrontarsi con questa realtà e conoscere le difficoltà che abbiamo affrontato noi, rivederle in altre persone può aiutare loro a affrontare meglio la loro vertenza e noi a crescere in maniera ulteriore andando avanti. Oggi siamo stati a Bologna e partiremo il 12, 13 e 14 febbraio, credo, ora penso che siano quelle le date. Siamo in Puglia, facciamo Bari, Lecce, Taranto, il 19 saremo a Cosenza e stiamo lavorando per andare anche a Napoli, un'altra volta a Napoli e in Sicilia, probabilmente abbiamo due date anche in Sicilia, per poi ricominciare la parte nord, chiamiamola così, del tour, ma ancora questo è tutto da organizzare, ma ci stiamo lavorando. Oltretutto, mentre alcuni ragazzi saranno lì, noi ci stiamo continuando a muovere, saremo in delle scuole, in tre scuole di Firenze, una di Empoli e alcune scuole di Livorno, che ci hanno invitato gli stessi professori a parlare sotto il discorso dell'educazione civica, dei contratti e delle delocalizzazioni, stanno facendo un lavoro grossissimo anche i professori all'interno delle scuole per cercare di coinvolgerci. Tutte le iniziative a cui ho partecipato personalmente sono molto, molto sentite e molto partecipate e questo ci può fare che piacere. Vi fa onore questo tour, ma state preparando la manifestazione del 26. Allora, ci puoi spiegare un attimo questa manifestazione del 26, dove si svolgerà, come si svolgerà? Soprattutto oggi si diceva che non c'era una piattaforma, ma voi in testa avete un progetto. Ce lo puoi spiegare? Lo puoi spiegare ai nostri ascoltatori? Sì, quello del nostro progetto è che la piattaforma, ancora come dicevi te, non c'è. La data è il 26 marzo e sarà a Firenze, ma ancora tutti i dettagli non li abbiamo definiti proprio perché stiamo lavorando a far convergere tutte le realtà del territorio. Abbiamo visto oggi molte realtà si sono presentate a Bologna con le proprie idee, con i propri intenti, le stiamo cercando di mettere in contatto con tutte le altre realtà che si occupano dei soliti temi e che abbiamo girato all'interno dell'Italia in modo da creare degli spezzoni all'interno del corteo che possano portare quelle istanze in quella piazza. Questo per noi è molto molto importante, perché la piattaforma in questa maniera la scriviamo direttamente portando all'interno di quella manifestazione i temi e quindi sarà in divenire e porterà all'interno di quella piazza tutti i temi, dall'ambientalismo, dalla conversione ecologica, Friday for Future, violenza sulle donne, morte sul lavoro, no al passante, no al TAB, no, tutte quelle realtà che comunque vanno a confluire e che si stanno muovendo all'interno del territorio, ora sono secondo noi un pochino sparpagliate, non so, sì, passatemi certo, il termine, certo. E che giustamente crediamo che stiano molto bene insieme e che debbano convergere in una piazza per dare un inizio a un qualcosa che poi si trasformerà, speriamo noi. In che cosa? Ad ora un laboratorio aperto, chiamiamolo così, e poi dopo ce lo dirà il tempo, questo io non so, non abbiamo secondo me ora nessuna intenzione né di diventare un movimento né di creare tanto più un partito politico, certo, tanto più, questo è chiaro, non abbiamo intenzione di fare quello, mettiamo a disposizione la nostra lotta, quello che abbiamo imparato nei territori, cerchiamo in un lavoro enorme, perché questo è un lavoro veramente enorme, di unire queste lotte qui cercando di certamente di cercare di scavalcare le diversità che molto spesso, anche oggi in assemblea è venuto fuori, sono veramente minime, che certo. Fanno sì che queste piazze siano tante piazze divise invece di essere un'unica piazza unica. Ma un coordinamento delle aziende in crisi o delle aziende che stanno lottando, delle aziende che vogliono insorgere, è nella vostra testa? State cercando in questo tour anche di poter fare una cosa del genere? Io ti rispondo nì, perché comunque è una roba, ne conosciamo tante, ma metterle insieme ad ora diventa una roba, sia per una mancanza un po' del tempo di cui si parlava, no? Sia del lavoro che c'è da fare, perché comunque ogni realtà ha la sua storia e quindi portarle insieme per farsi raccontare è giusto, andrebbe fatto, ma ora non ci proviamo, ma sarà una cosa un po' complessa da fare, perché trovare uno spazio che possa anche aggregare tutte queste realtà che sono veramente tante non è così facile, se non una piazza, e ora non è il clima adatto per... Il 26 sarà il momento. Il 26 sarà il momento di poter anche parlare di queste cose. Ci saranno tutte le istanze di lotta, ognuno si porterà la sua istanza per cambiare i rapporti di forza. E dopodiché queste istanze continueranno viaggiando con le proprie gambe nell'intento di unirle insieme in tutta Italia e quindi di farle lavorare su assemblee territoriali che parlino di New Economy, Green Economy, tanto più di inquinamento, tanto più di non nocività, mettiamola sotto quel punto di vista, tanto più no alla delocalizzazione, tanto più al lavoro, tanto più tutte le tematiche che in questo paese ora sono frammentate e che ad ora abbiamo l'obiettivo di portarle e a farle convergere insieme per iniziare quel processo che si spera porti poi quel rapporto di forza a essere ben diversi. Anche perché se non vengono i 26, cosa fanno? Cosa ci avete da fare di meglio? Cerchiamo allora di stare tutti insieme, uniti. Okay. E anche noi comunque abbiamo avuto difficoltà inizialmente, però ce l'abbiamo fatta, se ce l'abbiamo fatta noi, che siamo quattro scappati di casa alla fine. Beh, non siete proprio quattro scappati di casa, no, è vero. Però alla fine io ne conosco qualcuno GKN, sì, effettivamente. Ma alla fine se ce l'abbiamo fatta con le nostre divergenze, con le nostre diversità, è vero siamo 400, però ce la possiamo fare tutti, perché l'obiettivo è quello di, nel nostro caso è stato quello di cercare, ancora non ce l'abbiamo fatta, ma cercare di aprire lo stabilimento, e l'obiettivo è questo, che finalmente ci sia un paese equo, che dà lavoro, che non sfrutta, che con contratti giusti, che rispetta tutti i contratti ci sarà a giro, e è il momento ora di iniziare un nuovo percorso che ci potrà portare, e io mi auguro, avere anche grande soddisfazione. Io ve lo auguro, il 26 saremo con voi, il Pane Rose porta un saluto a tutti i lavoratori da GKN, siamo sempre con voi, siamo stati con voi, verremo sicuramente a Firenze il 26 marzo. E noi come sempre vi accogliamo a braccia aperte. Ciao, grazie. Ciao a te. I vent'anni bui a volte capitano nella storia, ma c'è un giorno in cui finiscono, e io non so se questo è il giorno, io so che abbiamo l'obbligo di provare a insorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, perché altrimenti non ci salviamo. E Firenze, suoniamo la Martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi, insorgiamo insieme. Resiste nelle piazze, nelle fabbriche, vite spezzate dai rumori delle macchine, lottano uniti gli operai e le operaie, lotta di classe, mentre il padrone infame gonfia bene le sue tasche. Lo Stato è complice da sempre per fermare questo scempio che va avanti già da tempo, non ha fatto niente, sta dalla parte dei potenti con le mani in pasta. Scendiamo in strada tutti uniti, se a gridare basta, basta un'email per mandare a casa tutti quanti, sottopagati in mezzo ai campi con i visi sfatti. Per le multinazionali siamo i nuovi schiavi, paghiamo zero, siamo numeri immatricolati, siamo i figli della nuova resistenza, costi quel che costi fino all'ultima vertenza, pronti a insorgere, con la rabbia pronta a esplodere, mentre il vento soffia forte. Ci terrorizzano, delocalizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me, se a questo giro lottare ti pare il minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Ci terrorizzano, delocalizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me, se a questo giro lottare ti pare il minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Recrudescenza costante del capitale, la coscienza che si espande tra le fabbriche operaie, la lotta è vita nella piana, colgo la sua essenza, costi quel che costi fino all'ultima vertenza. Sei solo un numero, che importa tu chi cazzo sei? Di punto in bianco verrei licenziato da un'email. Per i miei figli vivo dentro il posto di lavoro, per insegnarli cosa sia la dignità di un uomo. Si canta e si resiste, un altro turno finisce. Dentro il tempo si è fermato come a Chernobyl, cadendo poi si vince, quanto ti inorgoglisce. Sapere che fino alla fine tu rimarrai qui, è la rivolta dei dannati di una notte eterna. Perché i padroni giocano con la tua sofferenza, l'11 agosto come il giorno della ricorrenza. Classe operaia insorge e suona la tua martinella. Ci terrorizzano, te localizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Ci terrorizzano, te localizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Siamo di nuovo qui, abbiamo ascoltato il pezzo di Tenore Firenze, Simone, abbiamo ascoltato anche il martedì scorso, questo bravissimo rapper. Prima della canzone c'è stata l'intervista a Francesco, per chi se la fosse perso e si fosse collegato solo adesso può andare sulla nostra pagina Il Pane Rose e risentirla sul link del podcast della puntata. Ora, cosa dire, nell'intervista fatta a Francesco chiaramente abbiamo un po' detto le cose più importanti che a lui interessano come Milan Meccanici, chiaramente abbiamo parlato dell'accordo, speriamo che altre aziende come la Saga Coffee riescano a fare un accordo di questo tipo e poi realizzarlo innanzitutto, come anche altre aziende che oggi sono in crisi in Italia, ci sono tante purtroppo, il mondo dell'automotive è davvero ad un collasso. Diciamo che su questo siamo abbastanza convinti che ci sono le forze per portarlo avanti e i compagni della GKN per quanto riguarda il loro accordo hanno tutte le forze per poterlo realizzare e anzi fare qualcosa anche di meglio. Ora però come Metalmeccanici chiaramente siamo contenti, parteciperemo il 26 marzo e cercheremo in tutti i modi di portare i nostri compagni operai, Metalmeccanici e anche gli altri in questa manifestazione. Quello che sarebbe da fare sarebbe anche creare un coordinamento, certamente non vogliamo dare tutta questa responsabilità alla GKN, ma servirebbe tantissimo un coordinamento, spero che dopo il 26 nasca delle aziende in crisi che possa unire e che la lotta continui e sia sempre più importante e più forte. In quell'iniziativa si sono dette delle cose molto importanti, Dario nel suo intervento, delegato della FIOM della GKN, ha detto una cosa vera, reale: se noi pensiamo di cambiare le cose in questo paese attraverso accordi, attraverso la contrattazione, anche se avanzata, non abbiamo capito qual è il problema. Oggi l'attacco padronale è così grande, così forte e siamo in una situazione così di perdita di diritti di questi ultimi anni che se vogliamo veramente invertire la situazione, soprattutto non solo nel campo dell'automotive, ne abbiamo parlato anche con De Palma poche puntate fa, se vogliamo cercare di cambiare le cose realmente, che le multinazionali non possano fare quello che vogliono e chiudere e mandare sul lastrico e fuori dalle fabbriche migliaia e migliaia di operai, dobbiamo rinvertire i rapporti di forza, dobbiamo tornare a dei rapporti di forza che ci hanno portato al biennio del 68 fino a portarci allo statuto dei lavoratori. Dobbiamo essere in tanti, dobbiamo essere forti, ecco perché il 26 marzo è chiaramente un punto di inizio per poter insorgere e far capire questo paese, che i lavoratori ci sono, siamo tanti e siamo più forti dei padroni, perché solo se faremo questo potremo veramente cambiare le sorti di questo paese e anche le condizioni di vita nostre, dei nostri figli, dei nostri nipoti, e riconquistare quello che abbiamo perso. Ora, chiaramente il 26 marzo io penso che sia importante per tutti i compagni che ci ascoltano, anche per chi non ci ascolta, e partecipare, anche perché, così come ha detto Dario ai compagni del GKN, ma il 26 marzo, se non venite alla manifestazione, cosa pensate di fare? Un saluto a tutti quanti e ci sentiamo alla prossima puntata. Shut up.